Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh. E benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloons, una puntata introdotta con le musiche di Charles Trenet per un appuntamento che quest'oggi parlerà francese. Infatti, nelle strips transalpine incontreremo Vaillant, il giornalino del Partito Comunista Francese per ragazzi, da non confondere con Michel Vaillant, pilota di automobili degli anni 60. Poi passeremo a uno dei maggiori illustratori dei fumetti del Novecento, Mebius. Parliamo di Vaillant, il cane pif, che è stato importante per il pioniere di Rodari, non solo perché la Francia era comunque una stella polare per l'editoria per ragazzi, ma anche perché più concretamente il pioniere ha tradotto e ristampato per l'Italia tanti di quei racconti nati oltre Alpe. Con Sergio Rossi, scrittore, esperto e storico del fumetto, cerchiamo di saperne di più con l'intervista di Morena Moretti. Sergio Rossi, la rivista francese, rivista illustrata Vaillant, uscì per la prima volta nel 1945, ma aveva già dei precedenti e per volontà dei comunisti francesi. Ci puoi raccontare la storia di questo periodico? Beh, in Francia c'era già un periodico di successo che era Le Petit Vingtième, che era una rivista dove apriva il Tintin, quello di Rigueux, ed era una rivista degli scout cattolici, quindi questo enorme successo è essere controbilanciato da una rivista che portasse degli altri valori, sempre democratici, però non quelli cattolici, non quelli degli scout. Quindi, visto l'enorme successo dei fumetti, decisero di parare una rivista che contenesse anche dei fumetti e diventasse la lettura per i ragazzi. Ed era appunto questa Vaillant, che poi sono stati dei fumetti famosissimi per l'epoca. Basti dire che poi è diventata, sulle varie trasformazioni, una rivista che era una lettura di base per tutti gli autori che sono nati nella generazione tra gli anni 60 e gli anni 70. Sì, tra questi autori quindi ce ne puoi citare qualcuno? Beh, uno dei più famosi probabilmente è stato Roger Le Coureur, che era questo scrittore che disegnava questo Ran, che è una specie di Tarzan del mondo preistorico, e secondo un autore francese, Blatch, che è uno dei maggiori autori adesso, era lui preferito persino Corto Maltese, che appariva negli anni 70, quindi era una rivista dove c'erano questi personaggi che non erano, diciamo, di impronta comunista, nel senso che dovevano portare dei sani valori, perché erano tutti eroi, di storie molto importanti, cioè di storie belle dove vinceva, diciamo, il bene vinceva sul male. però erano anche storie molto avventurose, cioè la parte avventurosa non veniva mai sacrificata agli ideali, c'era sempre più una parte narrativa. Questo è un po' uno stacco rispetto alle riviste italiane, per dire, dove poi quando si voleva fare la parte didattica, penso al Corriere dei Piccoli, per dirne uno, o al Pioniere, quello che facevano il Partito Comunista per i giovani comunisti, erano più storie didascaliche. Questo perché in Italia la parte di narrativa, soprattutto in narrativa dei ragazzi, è sempre stata improntata per molto tempo una narrativa che fosse didattica, cioè si sacrificava la parte narrativa avventurosa, quella, se vogliamo, la saga più monellesca, La Vamba di Gian Burrasca, per puntare più sul lato didattico, cioè che bisognava insegnare qualcosa. In Francia, diciamo, c'è una narrativa per ragazzi, c'è una narrativa popolare, c'è sempre stata un'industria narrativa molto forte, questo dall'Ottocento in generale, cioè c'era già un'industria editoriale quando noi non l'avevamo, quindi c'erano già riviste per ragazzi dove c'erano racconti illustrati, racconti e quant'altro, diciamo erano molto più laici di noi da questo punto di vista, e quindi c'era anche il piacere della lettura, quindi i racconti dovevano essere dei racconti, poi è chiaro che portavano avanti un certo tipo di ideale, però prima di tutto dovevano essere dei racconti che funzionavano. E quindi sulla qualità del fumetto, parliamo anche tipo della grafica, da questo punto di vista anche c'è una differenza sostanziale. Con l'Italia? Sì. Con l'Italia, con sì, l'Italia, moltissimo, intendo. Moltissimo per un fatto molto semplice, cioè quando c'è un'industria editoriale si moltiplicano i soggetti che partecipano a questa industria editoriale, quindi c'è anche una competizione degli editori ad accaparrarsi i talenti migliori. Quando esplode Tintin, per dire, nei più di 20 anni, e Hergé crea subito uno studio per il padre di Tintin, per cui cura moltissimo la qualità dei prodotti, e questo fa da termine di paragone per tutti gli altri, cioè se tu vuoi andare contro Tintin non puoi fare un prodotto che sia qualitativamente inferiore a Tintin, deve essere allo stesso livello superiore, e questo era vero anche per tutti gli altri, non solo per Vaiano. Quando nel 59 viene fuori la rivista Pilot, dove il primo numero c'è Asterix, e il livello anche lì è molto alto, perché sono le riviste di settore che creano, le riviste predominanti che danno il metro di paragone artistico e narrativo. In Italia questo qui ce n'è molto meno per un altro problema, che la narrativa per ragazzi è sempre stata considerata un po' una narrativa di secondo piano, non una vera industria editoriale. In Italia è sempre mancata un'industria editoriale popolare, cioè in generale, dove c'era una narrativa che soddisfaceva, diciamo, il bisogno anche della semplice piacere della lettura, quello che in Francia era il feuilleton, quello che è il romanzo d'avventura, il dime novel, in America o in Inghilterra c'è, cioè, il romanzo a puntate, per dire. In Italia non avevamo Dickens nell'Ottocento, quando in Inghilterra ce l'aveva Wilkie Collins, e questo ha fatto sì che mancasse questa industria editoriale. La mer on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges. C'est pur, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maison rouillée. La mer les a bercés. Le nom du golfe clair et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été. Sergio Rossi, ti chiederei, tornando a Vaian, la domanda è: Vaian nasce, diciamo, viene pubblicato, editato, c'è, cioè, questa esigenza, perché si nasce durante il periodo della guerra un giornale che poi diventerà, un giornalino illustrato che poi diventerà Vaian e prosegue nel 1945 non più in clandestinità, quindi qual è l'esigenza, se c'è? Cioè, quando i giovani comunisti francesi decidono di pubblicare questa rivista, che cosa pensano? Pensano loro a fornire un qualcosa da leggere ai loro figli, che sia curato anche dal punto di vista di ciò che trasmette come ideali, come racconto, che sia più simile alle loro idee, giustamente, che a quelle degli altri editori. Ogni editore ha le sue idee, cioè, appunto, cioè, lì c'è il successo di Tintin delle Petit Vingtième, che era Hergé, era un conservatore, quindi le sue idee erano quelle diciamo destra liberale belga, per dire francese. È chiaro che di fronte a questo successo, a successo del linguaggio dei fumetti nel mondo dei ragazzi, si decida di fare una rivista fumetti che sia portatrice di quei valori, con delle storie fumetti, dei racconti, da parte della sinistra francese. Soltanto che loro lo fanno perché anche in Francia c'è comunque un'idea di lettura per tutti che era molto diffusa, c'erano tantissime riviste di tutti i tipi, cioè è normale in una società che legge, detto in Italia, visti gli ultimi indici della lettura, in Francia è normale che tutti leggano, e quindi cioè, ogni partito aveva le sue riviste di settore. Poi, a seconda delle persone che ci lavoravano, che sceglievano gli autori, che sceglievano le storie, gli articoli e quant'altro, avevano più o meno successo. Vaian era una rivista di successo da questo punto di vista, perché funzionava bene. Non è che c'era solo il Partito Comunista, c'era anche gente che sapeva come fare una rivista, certo, che è quello importante, cioè, quando si fa qualcosa. Senti, del personaggio Pif, che poi ha avuto un grandissimo successo, sì. Poi il nome di Vaian, esatto, si è trasformato in Pif Gaiger, cosa è mi quello. Racconti di quest'altra parte, è stato, diciamo, è il proseguimento? Quello è stato uno dei personaggi, per dire, di successo per decenni nel fumetto francese, ed era letto da tutti, rispetto che uscisse sulla rivista, appunto, fatta dal Partito Comunista, proprio perché, e ci hanno lavorato anche molti italiani, tra cui Giorgio Cavazzano, disegnatore di Disney e non solo. E questo perché c'era gente che sapeva come si narra una storia, come doveva essere disegnata, e sceglieva degli autori. Il cane Pif è uno di quelli che dei personaggi chiave del mondo editoriale francese. Poi è decaduto non tanto per problemi interni al Partito Comunista, ma è decaduto perché poi ci hanno lavorato degli autori che non hanno saputo rinverdire il personaggio, perché sono personaggi, sai, quando hai dei personaggi che durano dei decenni, e ogni autore, diciamo, lo trasforma nel solco di una tradizione e quindi lo innova. Nel momento in cui tu smetti di innovarlo, il personaggio perde di mordente, le storie non sono più belle e quindi non lo leggono più gli autori. Tutto qui. E, mentre invece per decenni è andata avanti. Poi hanno avuto questa idea geniale di mettere il gadget insomma, sì, sulla rivista, che alcuni erano completamente inventati, non funzionavano, cose proprio da ridere, e vendevano veramente centinaia di migliaia di copie. Un'idea che, poi nel futuro sfruttatissima, questa del piccolo gioco nella rivista, è successo. Esatto. Se vuoi, un'idea ripresa. È un po' paradossale che è stato il Partito Comunista a fare il marketing su queste cose, uno se l'aspetterebbe da un'altra rivista. Perché erano uomini, comunque, quelli che la facevano, erano uomini che sapevano come funzionava una macchina editoriale, come funzionava una rivista, le storie che funzionavano, e cioè come farle funzionare, e infatti la rivista vendeva perché e si diffondeva, e questo diffondeva anche la loro idea editoriale da portare avanti. Grandi fumetti. L'Incaldi Mebiu. Gli amanti del fumetto lo ricorderanno per le sue storie fantasy. Jean Giraud, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Moebius, si è spento a 73 anni dopo una lunga malattia. Inizia la sua carriera giovanissimo, poco più che 18enne negli anni 70, insieme allo scrittore belga Charlier diede vita a uno dei suoi personaggi più noti, il tenente Blueberry. Quindi il sodalizio con il mondo del cinema e la creazione dell'immaginario visivo di alcuni grandi film di fantascienza, da Tron ad Alien. Popolare in tutto il mondo, Moebius ebbe il genio di trasformare il fumetto in una specie di opera d'arte capace di una libertà espressiva fino ad allora inimmaginabile. Di Jean Giraud, alias Moebius, alias Gir, si è detto di tutto e si è scritto di tutto, riconosciuto unanimemente come uno dei più grandi illustratori della storia del fumetto. Oggi lo ricordiamo per questo suo lavoro con il regista Alejandro Jodorowsky, che lo chiamò a sé a metà degli anni 70 per la trasposizione su grande schermo di Dune, tratto dal libro di Herbert. Un progetto visionario con mega investimenti necessari, un progetto che però non ebbe mai avvenire, ma da quell'incrocio di creatività tra Mebius e Jodorowsky nacque nell'81 l'Incal, testi Jodorowsky e disegni di Mebius. Con questa antica intervista ricelebriamo quell'epopea tra fumetto e cinema, con le voci prima di Jodorowsky e poi con quella dello stesso Moebius. Un film che rimase un progetto è Dune. Buttai tutto all'aria, i contratti, tutto, ero totalmente al verde. Michel, che fece un ottimo lavoro distribuendo Il Topo e La Montagna Sacra a Parigi, mi chiese di realizzare un film con lui. Gli proposi Dune, ma in realtà non avevo neanche letto il libro. Me ne avevano solo parlato, così acquistammi i diritti di Dune. Quando lo lessi mi resi conto che era vero, dovevamo farlo. Mi piaceva la storia e poi dovevo mantenere la mia famiglia. Fu un fallimento straordinario. Ma quel fallimento si rivelò un prezioso alleato. Il problema era che il produttore era miliardario. Quindi non aveva bisogno di guadagnare soldi. Imparai la lezione che non si dovrebbe mai lavorare con chi non ha bisogno di guadagnare con l'arte. Perché possono abbandonare un progetto senza preavviso. Per loro è come una puntura di insetto. Forse dentro di me sapevo che il film non sarebbe stato realizzato, ma volevo vederlo. Per me è come se lo avessi girato. Va bene così. Vidi i disegni di Mebius per la copertina di libri di fantascienza e fui colpito dalla sua visione non scientifica, dotata di immaginazione artistica. Poi vidi il suo lavoro nel fumetto Blackberry. Vidi che agiva come un regista di cinema o un direttore della fotografia. Aveva una visione cinematografica nei suoi disegni. Così pensai che sarebbe stato perfetto per il mio scopo. Pensavo che il cinema americano, influenzato dalla NASA e dall'esercito, stesse creando dei frigoriferi volanti. Non avevo nessuna immaginazione nella progettazione di veicoli spaziali. Volevo delle astronavi colorate, che fossero come delle entità viventi. Allora abbiamo inventato questo vascello pirata che si camuffa da pesce. Giguet è un artista svizzero che ha creato il mostro di Alien. Guarda la testa, si vede già che assomiglia a quella di Alien. Questo è il castello del barone Harkonnen, che doveva essere interpretato da Orson Welles. C'erano diversi mondi e ogni pianeta era stato creato da un disegnatore e c'erano anche diverse musiche. I Pink Floyd e il Magma dovevano essere i compositori delle varie colonne sonore. Musicisti diversi dovevano dare un'idea del mondo di ogni pianeta. Da lì doveva essere l'imperatore pazzo della galassia. Quello che non facemmo in Dune, lo facemmo nei fumetti. Iniziai quell'immenso progetto dei fumetti che conquistò milioni di lettori grazie al fallimento di Dune. Senza quel fallimento non avrei mai fatto quei fumetti che adoro. All'inizio feci un sogno in cui cercavo il dio interiore. Vedevo due piramidi e decidevo di entrare per cercare il dio interiore. Entravo ed esplodevo in una specie di esplosione di luce. Quando mi svegliai ero felice ed ebbi l'idea di fare l'Inkal, che rappresenta il nostro dio interiore, il centro del nostro inconscio. Con Atom Heart Mother dei Pink Floyd targhiamo l'intervista ad Alejandro Jodorowsky per passare poi la palla a Mebius, che ci racconta Dune dal suo punto di vista. Io entrai mentre uscivano due persone. Uno di loro gridò: è lui, è Mebius. L'altra persona si precipitò verso di me in modo gentile e disse: così lei è Mebius? Sono felice di conoscerla. La persona che mi trovavo di fronte era Alejandro Jodorowsky. Mi propose di punto in bianco di lavorare al suo prossimo film, Dune, tratto dal romanzo di Frank Herbert, Dune. In realtà avevo appena finito di leggerlo tre mesi prima ed ero ancora scioccato. Per me Dune non fu un fallimento, il film non fu realizzato, perché doveva essere così. L'unica cosa destinata ad essere realizzata era la sua straordinaria preparazione, eravamo tutti euforici, in una specie di sogno. Il film è solo un miraggio tra le dune. qu'un mirage pour nous. Oui, c'est le mirage entre les dunes. Dune devait être une fresque extraordinaire. Dune doveva essere un affresco straordinario. Seydoux era conquistato dalla passione e dall'entusiasmo di Alejandro, dall'ambizione del progetto. Tutti noi eravamo in preda al delirio. Durante questa preparazione le mie emozioni oscillavano tra una grande ammirazione ed una fortissima disapprovazione. Il modo di pensare di Alejandro mi scioccava. Eccone un esempio. Un giorno dovevamo scegliere i costumi della dinastia degli Harkonnen. Lui si coprì gli occhi con la mano e cercò nella libreria, mise la mano sul libro che parlava di Tiziano, lo estrasse, lo mise sul tavolo e lo aprì. Puntò il dito a caso, era un libro di immagini, ovviamente. E disse, saranno così. All'inizio mi arrabbiai moltissimo, ma poi mi resi conto che aveva ragione. Potevamo iniziare dal nulla. Ad ogni modo, Alejandro aveva una convinzione, una serie di convinzioni, per cui non sapere, buttarsi alla cieca in qualcosa, dà la possibilità di esprimersi a quella parte misteriosa di noi stessi. L'Incal è la realizzazione di Dune. Ma all'epoca non lo sapevamo. Forse Alejandro lo sapeva perché il suo cervello lavora come 3.000 computer impazziti. Alejandro mi raccontò la storia mimandola allo stesso tempo. E io ero libero di interromperlo in qualsiasi momento. In quel momento ero libero di creare a mio piacimento. Interpretavo la parte dell'uomo razionale e lui era il folle delirante. Così ero contento di interromperlo e di dire: attenzione, il faut. Guarda, qui non c'è logica in questo. Alejandro accettava prontamente tutte le mie idee, il che era fantastico. Non aveva mai un blocco creativo e neanche di follia. Con i viaggi sonori dei Magma chiudiamo questa puntata dedicata ai vertici mondiali del fumetto. L'appuntamento, come sempre, è alla prossima puntata, stesso giorno, stessa ora e stessa frequenza. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano